Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Quattro ragazzi in gamba, Julian, Anne e Dick. Giorgina che si fa chiamare George. Tim è il loro cane, ha un fiuto eccezionale. Nessuno al mondo è furbo come lui. Noi della banda dei cinque, l'invincibile banda. Nessuno obbedisce, nessuno comanda. È la banda dei cinque che risolve ogni cosa. Trovaci un'avventura e siamo qui. Banda, clan, gruppo, branco. Sono molti i sinonimi che usiamo per esprimere il desiderio di unirci agli altri. L'associazione umana è un bisogno primordiale, qualunque ne sia la ragione, compresa l'accezione negativa a delinquere. Seneca, pensatore e poeta latino, scrive che l'uomo è una cosa sacra per l'uomo e fin da bambini sappiamo che chi trova un amico trova un tesoro. A questa visione consociativa si contrappone il pensiero pessimistico del filosofo inglese Thomas Hobbes, sintetizzato nel noto Homo homini lupus, l'uomo è un lupo per l'uomo, il quale nega che l'essere umano possa sentirsi spinto ad avvicinarsi al suo simile in virtù di un amore naturale. Per Hobbes, se gli uomini si legano tra loro in amicizie o società regolando i loro rapporti con leggi, ciò è dovuto solo al timore reciproco. Lo spiega meglio il professor Carlo Altini, direttore scientifico della Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Hobbes ha una concezione, diciamo, negativa, ma un'antropologia pessimistica, diciamo, e quindi nello stato di natura l'uomo non è pacifico ed è, diciamo, assolutamente probabile che lo stato di natura si trasformi in uno stato di guerra di tutti contro tutti, non tanto per una malvagità peccaminosa dell'uomo, in natura, quanto per la concorrenza sui beni scarsi. Esistono beni scarsi, ognuno di noi ha desiderio di appropriarsene e da lì emerge la guerra di tutti contro tutti. Quindi un'idea sostanzialmente di pessimismo antropologico, non però dal punto di vista del peccato originale. Ecco. In qualunque modo la pensasse Hobbes, oggi a Destini Incrociati parliamo di uomini che hanno saputo unire carriere, idee e personalità per creare un gruppo di simpatiche canaglie dedite all'unico scopo di divertire un pubblico sparso per le sale cinematografiche di mezzo mondo. A metterli insieme, due uomini di cinema molto diversi tra loro per carattere e fisicità, ma mossi dalla medesima e bruciante passione per il cinema. Il primo dei due piomba quasi dal nulla nel mondo della celluloide con un film di dirompente originalità. Sesso, bugie e videotape. Vuoi rispondermi? No, ti prego, non farlo. Perché? Non lascio stare. Perché no? Perché riprendi delle donne che parlano di sesso? Perché lo fai? Me lo dici? Senti, non hai il coraggio di dirmelo, avanti! Sesso, bugie e videotape, originale anche nel titolo, racconta molto della personalità del suo allora 26enne e sconosciuto regista. Scritto e girato con pochi soldi e in poco tempo, contiene tutti i corretti riferimenti culturali dell'epoca. Parla crudamente di sesso, ma attorno a personaggi romantici e fragili. Usa il videotape come nuovo modo di raccontarsi bugie in amore o di tenere un diario. Un esordio sorprendente, che gli porta in dono la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1989. Un grande inizio per la carriera del nostro primo protagonista di oggi, Steven Soderbergh. Steven Soderbergh. Relativamente alle emozioni, il film è molto autobiografico. In diversi momenti della mia vita io sono stato di volta in volta arrapato, disinteressato, spaventato, bugiardo. Ma la parola voyeur non mi piace. Ha una connotazione sordida, negativa. Per me, questo modo solitario di vivere l'amore è una faccia molto triste, ma anche molto moderna del vivere. Divenendo il più giovane vincitore della Palma d'Oro di sempre a soli 26 anni, Soderbergh segna il nuovo corso del cosiddetto cinema indipendente e l'inizio dell'era del Sundance Film Festival. La stampa lo acclama come il nuovo golden boy del cinema mondiale, ma il ragazzo dallo sguardo miope e il fare timido, cresciuto a Baton Rouge in Louisiana, non è tipo da montarsi la testa. Essere una star hollywoodiana è qualcosa che a quel tempo non è il primo dei suoi pensieri. Vuole solo scrivere e vivere di cinema, cosa che non ha mai smesso di fare già dai 13 anni d'età, quando scrive soggetti e filma cortometraggi in ogni momento libero della scuola. Una vera e propria ossessione, a dire degli amici dell'epoca, la mania di un nerd un po' impacciato con le ragazze, ma con le idee molto chiare sul suo futuro. A poco più di 20 anni per Steven si presenta la prima grande occasione. Lo racconta lui stesso. Facevo dei lavoretti per la stazione via cavo Showtime e qualcuno ha suggerito il mio nome agli Yes, che volevano un documentario su di loro, On the Road. Mi sono detto, perché no? Tanto non li avrei mai più rivisti. Ho messo insieme un film di 30 minuti molto buffo sulla vita on the road del gruppo. A loro è piaciuto molto e mi hanno quindi chiesto di fare un concert film per loro. Avevo 22 anni, allora mi andava bene tutto pur di lavorare. Fu allora che mi presi un agente. Poi ho cominciato a scrivere. Il primo lavoro pagato come sceneggiatore è stata la riscrittura di un telefilm della Disney, che poi non è mai stato prodotto. Dall'exploit di Sesso, bugie e videotape in poi, Steven Soderbergh deve imparare a vivere con puntati gli occhi di tutta Hollywood e un'etichetta di genio frettolosamente attribuitagli dall'establishment e da lui non richiesta. Robert Redford, Barry Levinson e Sidney Pollack prendono contatto per proporgli una regia, ma come lui stesso dichiara, quanto più alte le attese, tanto più probabili le delusioni. Ed è ciò che puntualmente accade. Anche perché l'uomo non è per niente banale e la scelta del suo secondo film cade su un soggetto e su una tecnica di direzione opposte al primo. Un cambio netto di rotta che lo porta in Europa, a Praga, per girare Delitti e segreti, liberamente tratto dalla vita di Franz Kafka, filmato in 35 mm e quasi totalmente in bianco e nero. Nonostante la buona interpretazione di Jeremy Irons nei panni di Kafka e la splendida fotografia, il taglio dark del film non riscuote particolare benevolenza di critica e pubblico negli Stati Uniti e poco di più in Europa. La mia sensazione è sempre stata che Kafka fosse un film più europeo che americano. Ma non mi aspettavo questo maltrattamento. Le recensioni sono state quasi ovunque negative, soprattutto nelle piazze importanti come New York e Los Angeles. In alcuni casi l'hanno veramente stroncato. Non ricevendo sostegno dalla critica, era difficile che il film potesse trovare un vasto pubblico, poiché c'è ben poco in esso di potenzialmente attraente per un audience. In America il sostegno della critica è fondamentale per i film non di cassetta. Non si fa altro che leggere articoli su quanto sono terribili i film fatti dagli studi e sono rimasto scioccato di non aver ricevuto nemmeno la considerazione di aver fatto una cosa fuori dall'ordinario. Alla fine mi è dispiaciuto solamente perché il film è stato interamente finanziato da una persona cui sono molto vicino e che ci ha perso un sacco di soldi. Per fortuna non era una somma enorme. Ma almeno per questa persona volevo che il film andasse bene. Fin da quei primi anni 90, Soderbergh dichiara la sua presa di distanza dallo star system. Lui crede nell'amicizia, in progetti da portare avanti con qualcuno che li condivida fino in fondo, anche a costo dell'insuccesso. Ed è tale approccio understatement che fa di lui un indie hero, un eroe per gli indipendenti. Tuttavia, dopo Delitti e Segreti, anche le tre successive produzioni, nell'ordine King of the Hill, The Underneath e Schizopolis, non riescono ad avvicinarsi al successo del film d'esordio. Molti attribuiscono a Sesso, bugie e videotape il merito di aver messo in moto il business del cinema indipendente. La parola chiave è appunto business. Se il film avesse incassato $1 milione, che a me sarebbe andato benissimo, ora non staremmo qui a parlare di questo. E invece era costato poco più di $1 milione e ne ha fatti 25. E sappiamo che se qualcosa fa soldi, la gente subito si interessa. Per Steven, dopo gli insuccessi dei film seguiti a Sesso, bugie e videotape, inizia un momento difficile e il credito acquisito sulla Croisette inizia ad assottigliarsi. Alla fine degli anni 90 capisce che per lavorare deve inevitabilmente schiacciare un occhio a Hollywood, fare un passo verso quel cinema di cassetta che tanto odia. Lo vuole fare a modo suo. E scegliendo ancora una volta i compagni di viaggio. Per la parte di Jack Foley, protagonista del film tratto dall'omonimo romanzo di Elmo Leonard, Out of Sight, sceglie un amico e attore già affermato, ma ancora alla ricerca della definitiva consacrazione e che non vede l'ora di spogliarsi da un costume di scena che rischia di rovinare la sua carriera. Tolta la maschera di uomo pipistrello, il nostro secondo protagonista sta per incrociare il suo destino con quello di Steven Soderbergh e svelare la sua identità. Il suo nome è George Clooney. George Clooney. Ladies and gentlemen, here he is, the multi-talented, the multi-charming George Clooney. George, come on up. Il multitalentuoso e multifascinoso George Clooney, così lo definisce David Letterman in una recente intervista nel suo celeberrimo show serale. Non è ancora diventato uno degli uomini più potenti di Hollywood quando nel 1998 sta in ogni modo cercando un copione che lo possa riabilitare dalla scialba interpretazione nel film flop di Joel Schumacher, Batman e Robin. Quando Steven Soderbergh gli invia la sceneggiatura di Out of Sight, all'improvviso tutto cambia. George si precipita al telefono, chiama il suo agente a Los Angeles per prendere contatto con Soderbergh. Vuole a tutti i costi avere quella parte. Avevo letto per mesi decine di sceneggiature senza trovarne una che fosse interessante. Ma di questa mi è bastato leggere 4 pagine. Ho tirato sul telefono e ho chiamato il mio agente. Del resto ho letto tutti i libri di Leonard ed ero ben disposto all'idea di calarmi in uno dei suoi personaggi, di entrare nel suo mondo. La sceneggiatura è scritta benissimo, è fedele al libro e a quel clima anni 70 alla Hal Ashby. Clooney è contento, Soderbergh è preoccupato. Per la prima volta lavora per una major, la Universal, e teme un eccesso di controllo. Pensa di poter perdere quella libertà che un'etichetta indipendente gli garantisce. E scopre anche che il libro di Elmore Leonard, maestro di dialoghi e ricercatore meticoloso di ambientazioni e atmosfere che spesso unisce a uno stile ellittico e poco lineare, è difficile da adattare. Il problema è che il tono dei romanzi di Leonard è difficile da riprodurre sullo schermo. La sceneggiatura di Scott Frank era ottima e la produzione aveva delle buone idee su come adattare il materiale. Ma l'importante era mettere assieme il cast giusto, perché quello che rende così divertente la storia sono i personaggi. È quello che permette ai libri di Leonard di essere cinematografici, perché il pubblico sente che la storia è spinta in avanti dai personaggi, non da una trama in cui gli stessi sono semplici pedine. Ho scelto uno stile meno rigido, un po' più rozzo, con un montaggio sincopato, dissonante. Sentivo che se questo materiale avesse avuto troppo il sapore di Hollywood, sarebbe crollato. Nel 1989 Steven Soderbergh lavora alla pre-produzione di Out of Sight, trasposizione cinematografica del romanzo di Elmore Leonard. Sa di non poter sbagliare. Dopo l'ingaggio di George Clooney nel ruolo del rapinatore di banche, affida a Jennifer Lopez quello dell'affascinante agente dell'FBI che gli dà la caccia. La ventenne di origini portoricane non è forse la migliore attrice in circolazione, ma l'alchimia con Clooney sullo schermo è assicurata. Entrambi ancora all'inizio di una carriera che li celebrerà come due dei maggiori sex symbol del cinema americano, George e J-Lo sono protagonisti di infuocate scene di passione, a corredo di una storia che Soderbergh dirige in modo anticonvenzionale, utilizzando molti flashback, immagini sgranate, scene girate con camera a mano e un uso intensivo del jump cutting. Tecnica che prevede il secco passaggio da un'inquadratura a un'altra e al tempo particolarmente innovativa. Mi dica, Gary, lei che lavoro questo fa? Questo teatrino durerà ancora molto? Non correre, non dire ancora niente. Se siamo altre persone non va. Gary e Celeste che ne sanno di attrazione. Il gioco è tuo, io non l'ho mai fatto. Non è un gioco e non c'è finzione. Stare qui ti pare sensato? Non è detto che debba esserlo, succede e basta. È come quando vedi uno per la prima volta, magari stai passeggiando per strada e gli sguardi si incontrano pochi secondi e avviene una sorta di riconoscimento. Entrambi ve ne accorgete, ma un attimo dopo quella persona è lontana. Ma ormai è tardi, non puoi fare più niente. Ti rimarrà impressa a vita perché hai tirato dritto. Ti domanderai sempre se quel giorno mi fossi fermata, se gli avessi detto ciao, se avessi sempre quel sì. Può capitare solo poche volte nella vita. O una sola. Ho una sola. L'indipendente Soderbergh lascia impronte inequivocabili del suo talento. Nel primo film su commissione ad alto budget della carriera, rientra nelle grazie di critica e pubblico, e tutte le opere successive vedranno alternarsi i progetti indipendenti a quelli mainstream. Steven ora sa come funzionano le cose e lo dice apertamente. La gente crede di sapere cosa vuol dire per un regista essere sincero con se stesso, ma non lo sa. Negli Stati Uniti mancano gli autori. Abbiamo pochi film fatti da filmmakers intelligenti che vengono proiettati in 4.000 teatri. Non capisco perché un regista dovrebbe essere penalizzato per il fatto di lavorare per le grandi case di produzione. Perché non dare un mucchio di soldi ai più interessanti invece che metterli in quarantena, dove per lavorare a qualcosa di buono devono farlo con $1 milioni? Esistono due tipi di registi. Ci sono quelli che hanno uno stile e sono alla ricerca di un materiale che sia consono al loro stile. Io sono l'opposto. Vedo il materiale e dico, va bene, chi devo essere per comunicarlo al meglio? Si può essere indipendenti anche dentro lo studio system, basta farsi furbi. Steven Soderbergh si è fatto furbo e sulla sua strada ha incontrato qualcuno che la pensa come lui. L'intesa con George Clooney sul set è perfetta e il regista riesce a rendere credibile un attore fino a quel momento considerato solo una bella faccia. Discutono, si divertono, hanno idee politiche simili e guardano Hollywood con il medesimo distacco. In una parola, i due diventano amici. Si lasciano alla fine delle riprese con la promessa di ritrovarsi al più presto, per lavorare ancora assieme e realizzare qualcosa che sintetizzi il loro modo di vedere il cinema. Promessa presto mantenuta. Tra poco, a destini incrociati. E basterà un pieno per andare lontano. Vedrai, amica, basterà. Abbiamo 1.000 strade scritte in una mano, ma il destino nostro quale sarà? In questa notte d'estate, da casa noi siamo scappate, la sete di un'avventura. Destini incrociati. A destini incrociati, l'incontro tra un regista sospeso tra il cinema indipendente e di cassetta e un attore in cerca di definitiva consacrazione ha prodotto un film di discreto successo, Out of Sight. Steven Soderbergh, il regista Palma d'Oro a Cannes, ha trovato in George Clooney ben più di un carismatico attore, un amico al quale unire le forze per un progetto ancora più grande. Ma lei è George Clooney? Yes, sono io. E che ci fa là sotto? Il futuro. Il futuro del ricciuto aspirante attore di Lexington, Kentucky, mette radici in un passato di dura gavetta e qualche delusione professionale. Dopo aver abbandonato un paio di università senza riuscire a laurearsi, prova a destreggiarsi in saltuari e anonimi mestieri quali il venditore di abiti da uomo, di scarpe da donna e polizze assicurative porta a porta. Ma George è figlio di Nick Clooney, noto anchorman televisivo, ed è a lui che si rivolge per trovare una strada nel mondo dello spettacolo. Nonostante le raccomandazioni paterne, George stenta a trovare la via. Dal 1978 è comparsa in miniserie TV di scarsa fama, partecipa a telefilm quali La signora in giallo, Hunter, e recita in B-movie dai raggelanti titoli quali La scuola degli orrori e Il ritorno dei pomodori assassini. Nel 1991, scoccati i 30 anni e senza una vera e propria carriera alle spalle, per Clooney pare arrivare un'importante opportunità, il provino per una nuova produzione di Ridley Scott, regista già affermato per i successi planetari di Alien e Blade Runner. Il film è Thelma e Louise. Senti, Louise, non torniamo indietro. Che vuoi dire, Thelma? Non fermiamoci. Non capisco. Coraggio. Sei sicura? Sì. Un cast di attori affermati quali Susan Sarandon, Gina Davis e Harvey Keitel, diretti da un grande regista. Una produzione stellare per un film destinato a diventare un cult degli anni 90. La parte non è da protagonista, ma il personaggio del giovane cowboy autostoppista, affascinante, mascalzone, è intrigante e sufficientemente centrale per la storia. Sembra fatta. George sente di avere la parte in pugno dopo che ha provato e riprovato il sorriso da bel tenebroso nello specchio della stanza d'albergo della produzione. Eppure qualcosa va storto. Scott ha preso un'altra decisione. La parte sarà affidata a un altro aitante semisconosciuto trentenne, come George, alla ricerca disperata di consacrazione. Si chiama Brad Pitt futura superstar hollywoodiana che con Steven Soderbergh diventerà uno dei migliori amici di George. L'idea di essere un attore è arrivata tardi, ma ricordo come fosse ieri quando Brad si prese il ruolo mentre io non sapevo assolutamente chi lui fosse. Maledetto cowboy. Sapevo benissimo che era un grande ruolo. Quelli che quando ti capitano fanno il botto, ti spianano una carriera. Avevo letto e riletto la parte assieme a Gina Davis ed ero davvero convinto che avrei avuto quella parte. Non ho voluto guardare il film per un sacco di anni. Poi una notte ho noleggiato la cassetta e l'ho visto. Naturalmente Brad è perfetto per quel ruolo. Molto meglio di come avrei potuto farlo io. Mentre Brad Pitt inizia una carriera pressoché inarrestabile, per Clooney sono ancora anni difficili. Deluso dall'esperienza con Scott, George sembra smarrire la via. Lavora poco, in produzioni irrilevanti. E nel 1994, a 33 anni suonati, per Hollywood, il futuro signor Nespresso è ancora un signor nessuno. Hello, George. Where am I? Make an educated guess. It's not my time. Maybe we could make an arrangement. I giorni degli spot televisivi, degli ingaggi plurimilionari e delle ville principesche sparse per il mondo sono ancora lontani quando a Clooney viene in soccorso, è davvero il caso di dirlo, un ruolo che rappresenta l'inizio di una nuova vita e carriera. Steven Spielberg lo vuole nel ruolo di pediatra della più famosa emergency room del mondo. George si cala nei panni di Douglas Doug Ross. E per i successivi 5 anni, ER, Medici in prima linea, è un successo senza precedenti. Doug Ross. You can't take the fact that I'm your boss? Hot riddle. I can't take the fact that anyone is my boss. Hot savior. Ross is a bona fide hero. All Clooney. And the shot. You ruined my concentration. It's your lucky day, I'm a doctor. This is where the world discovered there's only one George Clooney. ER. Weeknights 10:30 on Triple One Hit. Anni di programmazione per 331 puntate comprate da ogni televisione del mondo. 123 nomination agli Emmy Award per 22 vittorie fanno di ER la serie più nominata della storia. Gli interpreti divengono beniamini di un pubblico che si appassiona per il difficile lavoro di medici di pronto soccorso e si immedesima delle storie d'amore tra colleghi, in particolar modo quella tra l'infermiera Carol, l'attrice Juliana Margulis, e Doug, il pediatra interpretato da un Clooney finalmente a suo agio nei panni del bel tenebroso con un cuore e un'anima. E d'un tratto, assieme alle donne di mezzo pianeta, anche molto desiderato da quell'Hollywood che fino allora lo ha snobbato. Gorgeous George lo ricorda così. Non ho veramente avuto successo fino a dopo i miei 30 anni. Mi ricordo perfettamente seduto sotto il portico di casa di amici, del tutto attonito, depresso. I miei amici avrebbero voluto uscire per cenare e prendersi un hamburger, ma io non volevo, non potevo. Volevano offrirmelo loro e non volevo accettare. A un certo punto ricordo che Brad, un mio amico fraterno, mi allungò $100 e me li mise letteralmente in tasca senza dirmi una parola. Oggi Brad lavora per la mia compagnia di produzione e sento di aver pagato il mio debito. Il problema del pasto si risolve presto per George, che dalla paga sindacale dei primi episodi di ER passa rapidamente a cifre a 6 zeri. A uno zero in più ci arriva nel 1997, quando per $10 milioni accetta di infilarsi lo stretto neoprene del costume da supereroe forse più amato dal pubblico. Joel Schumacher lo chiama al posto di Val Kilmer nella mega produzione Warner Batman e Robin. È il primo film veramente hollywoodiano per Clooney, che si ritrova al fianco di grossi calibri quali Schwarzenegger, Uma Thurman. Ma le cose non vanno come previsto. Schumacher decide di dare al suo Batman un profilo meno depressivo e tormentato, lontano dalle atmosfere dark che il fumetto richiama da sempre. Scene a volte prive di senso, effetti speciali chiassosi e l'interpretazione generale così sottostandard da farlo considerare dalla maggior parte della critica il peggior film della serie. Molte colpe del flop sono attribuite anche a Clooney, il quale si trova al centro di polemiche che ne mettono in dubbio la carriera. The Peacemaker, Batman e Robin, alla fine non sono andati poi così bene, come sapete. Ma in fondo è stato divertente, avevo due capezzoli sul mio costume, capite? Comunque, il costume era davvero pazzesco, strettissimo. E io che dovevo dire ogni due minuti, sono Batman! Joel Schumacher, il regista, era fantastico, davvero divertente. Per caricarmi mi diceva, ok George, ricorda, i tuoi genitori sono morti, tu non hai niente per cui vivere, e azione! Batman! Wow! Clooney ha le idee ormai chiare sullo sviluppo della sua carriera, ma la Warner decide di cancellare la produzione del successivo film della serie. La saga dell'uomo pipistrello si chiude per i successivi 8 anni, prima di essere ripresa nel 2005 con Batman Begins di Christopher Nolan. A soccorrere George ancora una volta è Spielberg, che gli offre un'opportunità nel primo film della DreamWorks, sua nuova casa di produzione, e The Peacemaker, un thriller fantapolitico nel quale Clooney recita al fianco dell'emergente Nicole Kidman. Il film non lascia il segno, ma permette a George di rientrare nel giro. Il momento dell'incontro con Soderbergh e con la definitiva svolta nella sua carriera è ormai molto vicino. Destini incrociati. A Destini incrociati, Steven Soderbergh, ex timido ragazzo innamorato di cinema in cerca di rilancio, ha trovato un amico fraterno in George Clooney, ex attore squattrinato con qualche film fallimentare alle spalle. Insieme hanno girato Out of Sight, una pellicola dalle tinte fosche che ha avuto un discreto successo di pubblico e critica. Hanno molte cose in comune: la politica, sono entrambi legati al Partito Democratico, l'attivismo sociale e umanitario, ma anche da un'idea entusiasmante: realizzare il remake di Ocean Eleven, Colpo Grosso, film di grande successo degli anni 60 con Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr. Steven vede in Clooney un moderno Sinatra, mentre George è affascinato dall'idea di mettere assieme una squadra di amici e attori con i quali lavorare e allo stesso tempo divertirsi. Ricreare cioè la stessa atmosfera di genuino divertimento e sano cameratismo portato in scena dal mitico gruppo dei Rat Pack. Ladies and gentlemen, Laugh Productions is proud to present Drinkin', Singin', Swingin', a salute to Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. and Dean Martin. So get ready for the swinginest show on the planet. The Rat Pack, il branco di ratti. Favoloso gruppo di amici, cantanti, showman, protagonisti assoluti del mondo dello spettacolo americano anni 50. George e Steven ne vogliono ripercorrere i fasti nel remake di Ocean Eleven, un film che hanno in mente di girare coinvolgendo amici e colleghi. Prima di dare inizio al progetto, entrambi devono però assolvere impegni assunti in precedenza. Clooney, rilanciato da Out of Sight, riceve numerose proposte che spaziano dall'intenso cameo in La sottile linea rossa a Three Kings e The Perfect Storm, ma soprattutto al ruolo di Everett Ulysses McGill in Fratello dove sei, che gli vale il primo Golden Globe della carriera. Soderbergh non è da meno. Tra il 1999 e il 2000 è alle prese con due progetti che lo rilanciano definitivamente, Erin Brockovich e Traffic, splendidi film entrambi candidati all'Oscar nel 2001. Per quest'ultimo, Steven vince una meritata statuetta per la miglior regia. The nominees for Best Achievement in Directing are... For Billy Elliot, Stephen Daldry. For Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ang Lee. For Erin Brockovich, Steven Soderbergh. For Gladiator, Ridley Scott. For Traffic, Steven Soderbergh. And the Oscar goes to Steven Soderbergh for Traffic. This is the first Academy Award and third nomination for Steven Soderbergh. He is also nominated this evening for Erin Brockovich. That's why. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Famosi e molto ben pagati, Steven e George possono finalmente dedicarsi al loro progetto. Il primo passo è fondare insieme una casa di produzione, la Section 8 Productions. Il secondo, chiamare all'ingaggio gli amici di sempre. Brad Pitt, ormai perdonato per il furto del ruolo in Thelma & Louise, prende il posto di Dean Martin, mentre Don Cheadle, già spalla di George in Out of Sight, prende quello di Sammy Davis Jr. Ma tutto il cast è, come si suol dire, stellare. Julia Roberts, l'attrice che Soderbergh ha portato all'Oscar nei panni di Erin Brockovich, e Tess, ex moglie di Danny Ocean, interpretato proprio da Clooney. Andy Garcia, nel ruolo di un gangster da manuale, è uno stralunato Matt Damon, che assieme a Pete e Clooney compone un terzetto di belli e impossibili da togliere il fiato alle signore in sala. Beh, io devo scappare, mio padre incastra uno e ha una parte per me. Congratulazioni. Molto bravo. Ci vediamo quando ci vediamo. Wow. I simpatici e strampalati 11 di Danny Ocean, rapinatori gentiluomini dei tre più importanti casinò di Las Vegas, il tavolo da gioco lo sbancano davvero. Il film, coprodotto dalla Warner Bros., costa 85 milioni, ma ne incassa 5 volte tanto, sfiorando la soglia del mezzo miliardo di dollari. Un successo incredibile, travolgente, superiore alle attese dei due amici, che in fondo volevano solo girare una buona commedia in compagnia degli amici. Colpo grosso, a metà della storia, perde mordente, forse anche perché Frank Sinatra era impegnato con i suoi spettacoli musicali, ma io ho voluto rendere il film migliore del prototipo, conservando però quell'atmosfera di cameratismo e un cast di grandi star. Della sceneggiatura mi ha colpito la storia senza violenza e volgarità e quel tanto di innocenza dei protagonisti. Volevo anche fare qualcosa di diverso rispetto al mio precedente Traffic, perché mi piace sperimentare generi diversi, anche se a Hollywood c'è la convenzione che i registi impegnati non si possono abbassare a commedie di intrattenimento. George e Steven decidono di continuare a intrattenere il pubblico realizzando i sequel Ocean 12 e Ocean 13, entrambi buoni successi. Le loro carriere sono ora ai massimi livelli, collocati stabilmente tra le personalità più influenti di Hollywood. Soderbergh può dirigere progetti in piena autonomia. Su tutti, due episodi della vita di Ernesto Che Guevara con Benicio del Toro. Di Clooney la storia degli ultimi 10 anni è fin troppo nota. È molto intensa. Diventa regista a sua volta con l'ottimo Good Night and Good Luck e vince un Oscar nel 2005 per Siriana, prodotto ancora con Soderbergh. Gira spot per le televisioni di tutto il mondo, Italia compresa. I due amici, pur con stili e scelte di vita diversi, non smettono mai di incrociare le loro strade, continuando a produrre insieme film di ottimo livello anche in anni recenti. Entrambi hanno da poco superato la soglia dei 50 anni e sembrano portarli davvero bene. Mi dai 50 anni tu? Sì? Davvero? Beh, cioè no, soltanto, insomma, dal collo in su. Taking you nowhere. Angel, come, little baby. Look at that sky, life's begun. Lights out.